Prova microfono, prova. Prova. Prova radio, prova. 1, 2, 3, prova. Prova radio. Prova radio. 1, 2, 3, prova. Prova, 1, 2, 3. Sto provando una radio con un microfono che si chiama Universe, un microfono che ha rotellina di regolazione del volume, perché batteria manco ne ha. Guarda che stai fischiando, vieni. Uno sta fischiando, l'altro sta gracchiando. Adesso va bene. Guarda un po', guarda, vieni. Che non so se... qua è tutto al massimo, ho messo KK e perlomeno questo credo sia il Maikiki PVR Mic, così KK e avrà 50 anni il tuo microfono. Guarda la ruota, adesso è al massimo. La prova com'è, peggio o meglio? Fatte, per me sta usando un microfono normale, non sento nessuna preamplificazione, sento solo cr e boh, tutto qua. Continuate a fare le vostre prove, io rimango in quelli. Microfono normale, però si chiama Universe questo microfono. Aspetta, abbasso un po' dalla radio, vediamo un po' questo power, vediamo un po'. Allora, il microfono sicuramente vorrà spruzzato un po' di cose. Guarda, vedete se è migliorato, peggiorato, gappa. No, non è amplificato. Siccome ho visto anch'io la rotellina, c'è una rotellina rossa di fianco, e ho detto sarà amplificato, provo adesso a vedere la batteria, magari ossidata, per curiosità. Ma la Giabetto non viene porta batteria. Non so io neanche di che anno è questo microfono, ti puoi immaginare. Si chiama Universe. La radio sta andando bene, KK. Sto muovendo il bagaglio qua. Allora, così al massimo. La rotellina del microfono, ripeto, non so cosa regoli questa rotellina, in quanto non avendo una batteria o un circuito di amplificazione il tuo microfono. Io non ho mai visto microfoni normali con la rotellina. Allora, aspetta, adesso la abbasso. Ecco, così a zero, 1, 2, 3, prova. Che strano, mai visto, adesso lo sto di nuovo aumentando, adesso cerco di mettertelo a metà, ecco. Mai visto un microfono così, mai. Con il carrotellina, però è senza batterie. Buonasera. Ciao Gianni, buonasera. Qual è la rotellina rossa? C'è una rotellina rossa. Si chiama microfono Universe, c'è una rotellina rossa. Pensa che ho visto un annuncio che questo un tipo li sta vendendo 80 euro l'uno, questi microfoni. Sì, hanno una sorta di preamplificazione. Si usavano su una parte, se non mi ricordo qual era, di vecchia era, però io li conosco quei microfoni, ci avevano un circuito c'avevano qualche cosa che li faceva uscire fuori più radio, adesso non mi viene come si chiama, però già io li ho visti, li ho conosciuti. Allora, in questo annuncio, questo qua ha scritto che questi microfoni sono ricercati per chi fa, che ha radio colt senza mic gain, proprio perché vanno bene per quelle storie lì. Vabbè, lascia a metà la rotellina comunque. Però stavi gracchiando. Te l'hai comprato tu? No, ho preso insieme a una radio. A una radio 40 canali. Allora, vediamo un po'. Adesso di nuovo al massimo. Ma poco fa Benito mi ha detto che andava bene. Ha gracchiato un po', come tu l'hai mosso. Probabilmente è sporca solo, non è che sia niente di che. È sporca perché fa proprio il rumore di quando è sporco. Ma il PTT lo fa. Guarda, vedi un po'. Ti lascio la portante. No, adesso non sta facendo nulla. Prova a premerlo e a mollarlo. E se non gli metto un po' di spray, non mi costa nulla aprirlo. No, adesso non l'ha fatto, però poco fa sì, mentre stavi parlando, che l'ha fatto. Sì, ci vuole pulire il PTT, perché ha gracchiato un po', capito? Comunque non amplifica niente, assolutamente niente, zero di zero. Dovrebbe avere un impianto di compressione, ciao Claudio. Ha un impianto di compressione tipo quello che c'ha il Tokai, dovrebbe avere. No, non è il condensatore quello, è una modulazione normalissima, provato, no. Io non ho notato nessuna differenza. Sento solo questo gracchiare e basta. Ascolta, ma non è un controllo, sto provando un tanno più 3B. Com'è la modulazione? Bella? Ah, fatta mirare, sì, bella, bella. Mi serviva. No, perché con gli altri radio è troppo acuta, mentre invece con questo Midland si adegua molto molto bene. Già va bene, se poi non va bene già lo sai a chi danno. Sì. Lo sai, io compro per avere, non per dare. Poi se c'è qualcosa da dare già ne abbiamo altro. No, sto usando il Pony, capito? Perché quell'altro microfono della Gain non si adegua. E allora mi sono fatto fare connessioni stamattina. E sto usando il Tunnel più 3 con il Tunnel più 3B, da quello nero, insomma, solito. Ah, è nero, è quello che piace a me, l'altro a me non piace il colore. Il colore nero già mi piace. Già va bene, andava l'ultimo per la tuba. Io stamattina l'ho portato, l'ha diventato da aggiustare. Oh, come ti ha detto? Te lo dà, no? Quando te lo dà, non te l'ha detto? Ha detto fra una settimana più o meno che lo controlla. Se c'erano un po' di televisori, era tutto assurato da via, tutto bene, ma la ruga abbassata. E la gente, se si può riparare, che ripara, capito? Tutto. Avanti, vieni, riprendi. Ma Benito, ciao Benito, ben sentito, cordialità. E dove sei, è Latte Dolce o Renata a casa? Ah, sei malattia, ho capito. Andare. Niente di grave, aspetta. Dove abiti bene? A Ottava? Stai fischiando. Cazzo, sempre lo stesso difetto c'hai con quell'MC60. Non ti ho mai sentito non fischiare. Beh. No, c'è qualche filo che sta staccato. Comunque quando fischiano così basta mettergli un cavetto come avevo fatto io nel 140. Ho messo il cavetto dall'entrata dal microfono all'entrata dello spinotto. Ma non è un difetto, è un problema di dove sono le radio, perché io ne ho tre e non fischiano, anzi non hanno mai fischiato, la verità. Mi può fischiare uno di questi microfoni dei vintage, ma gli MC60 non fischia. Vabbè, dai, riprendi Luca Flipper, facci sentire questo microfono, vediamo se migliora. Ma sai, un baracchino con quel microfono che me lo voleva vendere, che poi ha venduto, mi sembra, a Polverone. Poverai, me lo voleva vendere, un baracchino che aveva preso da internet con quel microfono con la rotellina rossa. Io ognuno ha il microfono con la rotellina, ma c'è la batteria dentro, però. Sono quelli della Fayette, quelli neri, capito? Ma c'è la batteria da 6 volte dentro. Quello non ne ha di niente. Non so manco cosa sia quella rotellina, ma a prove fatte no, non amplifica, non fa niente. Non cambia niente, manco la tonalità di voce cambia. Aspetta che sto spruzzando lo spray, che ce l'ho aperto, un attimo, mi sentite? Vedi adesso come sta amplificato? Ecco, sta amplificato. No, adesso no, vedi, ho capito. E allora, mettemi conto, Giambani, vedi, dove c'era un po' di tempo che non ti sentivo, Già ci vuole, quando è così, bisogna stare a riposo, perché sennò è picco. Poi gru freddo. Dove sei? Sempre in quell'azienda là, vedi? Ma non stai viaggiando più, dove sei? Capannò? Va bene, meglio così, dai. Vabbè. Avanti Gianni, riprendi. Il baracchino è in camion, vedi? Ho capito. Bastava mettere una magnetica volante. Quando devi cambiare, stacchi la magnetica e muore là, sai? Si compra, si compra. Poi vabbè, tu solo lo sai, io per dire in ditta non me lo permettevano, però io quando facevo viaggi lunghi, marigavo la magnetica e me la attaccavo lo mattesci. Dopo, prima di tornare lo staccavo. E vabbè, non è che tu puoi, ragazzi, puoi garantire che non ti dà ruggine. Dipende come te la lamina di Lucano, devi dire. Arturis, andando stai a fare il panino. No, io non mi soffo più. Ah, ho capito. Ma che materiale scaduto di che tipo? Anche le merci, no? Per ora. Ah, non lo state più ritirando voi. Ho capito. E invece le merci, tipo cosa ti posi, la roba scaduta, quella roba lì, cosa fate, cosa ne fate? Ah, non è che le recuperate per mangimi, roba del acciugamino. Andare, andare, vabbè. I tempi cambiano, io sono stato operato alla gamba, sì, mi hanno messo la protesi del femore, perché ce l'avevo quadrata, fuori di tirare il pedale e tirare là, e vabbè, avanti qua, sta a svoltare il club. No, fate, sto facendo così qua, non c'è problema. Sto invertendo qualche radio per fare delle prove su questo microfono, ma penso che questa sia la migliore, diciamo, dai, nel senso che si adegua di più, le altre in cuffie è troppo forte, troppo alta come tonalità di acuti, vi capito, invece qua è un po' più bilanciata. Ehi, già va bene, cappagamba. Vabbè, riprendi chi c'è, Luca Flipper, va. Guarda se sta ancora cracchiando o fischiando, tu. Vedi un po' che adesso gli ho spuntato lo spray. C'è una capsula grande in metallo dentro. E basta, non c'ha. Che c'ha batteria rossa, c'ha giù. Ciao, né batterie né niente. È un compressorino c'ha sicuramente, qualche compressore. Sì, sta tutta cracchiando ancora. Buttaci prima un po' di aria spray e poi mettici lo spray per contatti, perché sennò si impasta. Era pulito e pulito già, guarda adesso, vedi un po' che sto muovendo la rotellina. E come muove la rotellina? Ma che fischia? Adesso è quasi a zero. Allora, quello lì deve essere il potenziometro della rotellina, detto chiaramente, che c'è qualche granellino di polvere e non sta andando per quello, ma comunque adesso mi sembra più forte la radio. Vedi un po' che l'aumento dalla rotellina sempre. Allora, qui dal baracchino c'è Power Mic, a meno che aspetta che lo abbasso un po', vediamo un po'. Ecco, vedi un po'. E adesso stava aumentando. Non dico tantissimo, però aumenta. E secondo me devi lavorare sulla rotellina del potenziometro che c'ha, perché come tu muovi la rotellina fa rumore. Ma lo senti già questo aumento, cazzo, io non riesco a capire i controlli che date. Dove lo senti questo aumento già? Io non sento niente, non cambia niente qua, nulla, sempre uguale, sono anche in cuffia, non cambia assolutamente niente. Io ho l'orecchio fino, ma non sento un pochino che aumenta. Guarda, ma non lo so, io sto muovendo sia la rotellina sia questo potenziometro del baracchino, e però qua gli strumenti si muovono, però non so voi come. Prova. Vabbè, se tu c'hai l'orecchio fine, allora io ce l'ho tappato. Va bene così. Riprendi. dB, dai, bianco per me, io non sento nessuna variazione, sento solo rumori, fischi e matracche. Vai bene, dai, un attimo di quel Rix che devo fare un'altra prova. No, sto facendo bene, no? Non è che ne faccio una malattia. E tu sei vecchio, questo è un preventivo. Adesso il microfono di tavola, per esempio. Però non mi interessa. Se no lo cambio. Oh, Flipper, hai finito di fare casina, quella che ti mette dentro la piscina, È vero. Sì, su Flipper, come c'è? Tutto borturato. Ciao, buonasera a tutti, Marco Scorpio, mobile. Buonasera, Marco. Ieri però non sei stato di parola, non sei entrato di sé. Ma valla, c'è la cintura, se no qua c'è la campanella. Ieri notte, non sono passato a salutarvi, a fare un po' di ciabotto qua. È vero, così è già. Ma cosa sta combinando Flipper? Intaratura. Flipper, non vuole cacciare butti a punta grossa? Ah, di quei microfoni con la rotellina rossa, ce ne presenti quelli che si usavano prima? Che dovrebbe avere qualcosa all'interno, come c'era il microfono del toccare, un compressore, qualcosa per farlo uscire più forte, però fischia, fa, boh, non si riesce a comprare niente. Vabbè, perché cose che hanno i loro anni, qualche componente sarà ormai svanito. Vediamo un po'. Ho capito, quello è con la rotellina rossa. Sì. E beh, dove ci sono? C'era un transistorino, mi pare di ricordare, due condensatorini, non c'è granché, la capsula è una capsula che ha bisogno di alimentazione, la batteria, bisognerebbe smontare, aprire e provare a sostituire, o controllare il transistor se è a posto, o se no fregarsene, tanto costano 1,50 euro tutto, e sostituire i componenti, se lo risali e vai. Sentiamo un po', Flipper, questa è la storia. No, Marco, questo microfono, sì, anni fa insieme alla radio, è un universe con la rotellina rossa ma senza batteria, ok? Senza batteria. Ah, ho capito. E allora non ha circuito di amplificazione, perché possibilità di alimentarlo non ce ne sono. Le radio, allora, a meno che non è una radio particolare che così io non conosco, ma che possa avere via di natura che alimenti come le HF, gli amatoriani, possa dare tensione, ma altrimenti è dentro già che c'è poco ma dove sei, Marco? Sono vicino a via Gorizia. Ah, ho visto il segnale 9:30. Ascolta, sto usando il Turner più 3B, va bene con questo Pony 23 canali? Sì, benissimo, funziona bene. Modulazione amplificata, effetto un po' camera, molto bene. Che antenna stai usando? Un'antenna homemade, fatta a casa all'Uncinetto, come tutte le antenne di KB. Faccio fatica a ricordare un'antenna comprata e installata originale senza fargli niente. Antenna ricostruita utilizzando, Gianni, i radiali di una mini Grand Plain della Bara cittadina. Io dico che questi radiali avranno 45 anni. 6:30 qua, ma sei attaccato? Sei attaccato, sono in macchina, non ne ho scotch, sono con la radio chiuso sempre. Una alla 48. Sono sempre con quello e mi trovo fra i palazzi, c'è anche Pino dei palazzi, ti dico, sono i palazzi dietro via Gorizia, chiuso fra 4, 5, 6 palazzi, ti dirò di più. Sì, arrivi bene, probabilmente c'hai il varco verso di me, dai, dritto arrivi a casa. Ho capito. Sì, va bene, Marco. Non c'è di che. Sì, 9:30 qua, figurati quando arriva a te, è lì vicino. Ho fatto un passaggio qua alla 9:30, pensavo fosse qua in via Milano. C'è anche Benito comunque, Marco. Avanti Benito, io sono qua, stavo facendo delle prove, però la radio si adegua di più a questo microfono, nel senso che non mi dà troppi acuti e questa, capito? È questa qua, questo Pony base 23 canali. Avanti Benito. Va bene, bene, intanto io ci rifate nei bagagli, tane più 3. Cazzo, 90 euro, fa una stagione le varie. Avanti, Benito. Benito, vabbè, comunque io con quel microfono gliel'ho già detto a Luca, se non c'è batteria non è un microfono preamplificato. Quella rotellina magari serve a qualche tonalità, a qualcosa, ma io lo sento talmente male che non riesco a percepire nessun cambio di tonalità né di niente. Non è un microfono preamplificato quello. Ok, avanti Marco. Aprilo, tanto ci sono quattro componenti, o Flipper, o Luca, non è che c'è molta roba, di saldi, guarda un po', ecco, più facile che sia qualche commentatorino, non credo che si possa essere lavorato per la giornata nel tempo, ma magari con 30 centesimi lo sempre la stessa, sul mollone della MSC e con gli adattatori, fatto fare, io ho visto i rampling che facevano, e avevo come antenna e poi c'era rocca, l'alluminio c'era corroso, sono andata e ho recuperato i radialetti e poi mi pare lo zio ce l'ho buttato perché era tutto ossidato, perché i radialetti erano fibra di vetro, erano in fibra di vetro però rivestiti di gomma grigia, non come quelli della Mantova che si sfogliavano e diventava fastidioso e si intaccava dappertutto le schegge della fibra di vetro, queste invece rivestite in gomma e con l'anima poi caricata di rame e fa il suo bellissimo lavoro, funziona alla grande, l'ho tarata doc per questa banda, poi quando devo usare per altre frequenze come sempre smonto e metto l'altra. Mi trovo praticamente adesso presso l'istituto Confitto Nazionale Calapoleno, mi sto fermando perché ho sentito che c'è una caffettiera accesa da questa parte, devo scendere assolutamente per risolvere questo problema e spegnere l'incendio. Dai, ci sentiamo magari un pochino. Vieni già a iniziare con la buonasera ancora a tutti qua dalle Azzurre, diciamo in zona tra l'Uovo del Monte e la Torre di Cuneo, Marco Scorpio in Corretti. Ciao Marco, buon Corretti, ci sentiamo dopo magari se rientri, avanti. Ciao Marco, dopo. Ah, ma io già le conosco le tue antenne, no? Hai già anni che non le conosci, io so perfettamente cos'hai sempre nelle macchine, quindi la conosco benissimo quell'antenna, non c'è problema. So che è fatta da te come tutte le altre cose che fai. Molto bene, ci ascoltiamo dopo, allora alle prossime. Avanti Benito se ci sei. Ciao Benito, ciao, ti venite a Ottava, non è qua Sassi. Va bene, vuol dire che funge. Ne avevo fatta anche una io per la macchina e andava benissimo, corta e pompava forte. Sì, vabbè, lui c'ha un sistema diverso da quello che hai fatto tu, già lo conosco. C'è il mozzo unico dove cambia gli stili, capito? Un sistema molto bello per chi fa attività come lui anche dove l'amatoriale della macchina. Tutto qua. Va bene, vedi, mi dici come ti sto arrivando lì a Ottava con questo Puni che ancora non ho fatto nessuna prova, sia di radio che di segnale, sono esattamente con 8 watt avanti, 9,5 radio 5, buono, ma c'è un'antenna piccola, che antenna c'hai? Non capito, qua sei Santiago 8 con picchi positivi quasi a 9, radio 5, avanti Gianni. E io quando ti arrivo con la potenza dell'apparecchio 8-9 watt, dai. Così poco, 8 ti arrivo. Se probabilmente è anche la antenna che non sta irradiando bene. Già, se a me mi dà 9,5 vuol dire già sta ricevendosi. Magari nella posizione in cui si trova lui non sei favorevole tu. Io Ottava da qua la vedo e sicuramente per quello. Questa sta dando. Allora, col rosmetro, col wattmetro esterno, wattmetro di quelli da 13, sta dando 8 watt. 8 watt. Adesso guardo la mia, quanto sta dando? 9 watt. 9 me la mia. 9 watt. 9 watt. Aspetta, ancora fischiando già, senti qualcosa? Prova a cliccare, mi sembra che raschia. Ma anche quando non parlo, oppure solo quando parlo? Quando primi un po' raschia, poi non raschia più. Però prima asciuga tutto a fisci, tutto cosa, adesso la radio è più limpida, più buona. Sì, vabbè, però non c'è preamplificazione, ma giustamente è un microfono normale, dentro non c'ha manco componenti. C'ha solo questa rotellina e la capsula, non c'ha neanche componenti. Capito? Ma guarda dove sono collegati i fili della rotellina, scusa, del potenziometro, guarda dove arrivano e controlli il circuito, no? Non c'è nel circuito. Tanto già, ti ho trovato un microfono normale quello, lo conosco perfettamente, non ha niente. Poteva essere un coso di tonalità della capsula, se i fili sono collegati alla capsula, ma non ne ha circuito quello, assolutamente, non ha niente, non è un microfono preamplificato. Ma infatti poco fa doveva essere lui che si è allontanato e avvicinato, poi il microfono arrivava un po' più forte, però io l'ho sentita la cosa perché sono molto vicino, capito? Quindi si sente. È capace che lui si è allontanato dal microfono, era più basso, qui è risultato un po' più alto, però io me lo ricordo quel microfono. La buon'anima l'editore all'Averde me lo voleva avere, questa parte l'aveva preso da internet e io non l'avevo preso, non so per che cosa, che non mi piaceva, e l'avevo venduto a cosa? A Polverone, a Michele. Io avevo fatto mi segni che se tutti i microfoni preamplificati, ti ho detto, io c'ho quello nero con la rotellina sopra al centro del microfono, no? C'è la rotellina, costava 12 euro quel microfono, della Fayette, non mi ricordo che marca sia, però c'è la batteria all'interno da 6 volt, quindi amplificata. Se non c'è il circuito di preamplificazione, non c'è il circuito stampato, non c'è niente, è un semplice microfono normale con questa rotellina, magari non è manco l'uso io un microfono, non lo so. Avanti, Benì, riprendi che mi è arrivato un messaggio, voglio guardare chi è. Lo metto al massimo, perché ho notato. Però sta fischiando, non c'è. Oh. Guarda così. Sta innescando e in più esce tutta la stracca, tutto gracchiante. Probabilmente anche l'attacco, controlla anche l'attacco dello spinotto, che non ha più qualche cosa allo spinotto. Ancora? Guarda che ho abbassato. Ancora. Mi pare che questa rotellina serve solo per rompere le scatole e basta. Oioioi. Non lo so. Vabbè, tanto per quello che deve durare qua è già praticamente venduto, capito? Va bene, dai, attacco l'altro allora. Ok, lascio tutto dormire, non devo stare a faccio cischiare a tocca nuda. Ma cos'è? Un base questo? Eia, un base, 40 canali AM e CCB. E che apparato è? Un Jaguar 8193. No, ma è un altro microfono. E ha giocato un bacio bolluito che lo zoio. Già, capito. Sta bene, non interessa neanche di stare lì a provare il microfono. Mandami la foto a vederla, se mi piace. Non ce l'ho neanche. 340-836-5755, quello è il mio numero. Sì. Problemi non ne ho. Cappagatto. Ma l'hai venduto? Ripeti già, 340? 836-5755. Sì, è già venduto. Ho comprato, ma se vedi è già venduto. Perché ci sono questi degli ospedali, una flebo, una siringa. Aspetti, ma... Guardate, se l'hai venduto, vabbè, la fammi vedere. Perché io sono in cerca di farmi tutti i ripiani con i base e dimmino tutti gli altri apparecchi. E mi metto solo base, mi sono rotto le balle degli alimentatori. Usa base a 220 e vedrai spero che non sbagli. Guarda, io qua c'ho tutta la scrivania con i 220 e dall'altra parte c'è la scrivania a 12 volts. No, hai problemi. Niente alimentatore in mezzo alle balle. E c'è il signore. Allora Beni, questa T250 me lo vendi? Che non l'avresti tornato, non l'hai restituito neanche a me più. Già lo so, sto scherzando. No, ma intanto non le compro. Non le compro, me lo tengo così. Io c'ho l'alimentatore, la colonnina e la radio, capito? 140 c'ho anche. Però non le compro T250, no, non mi interessa. Non ce ne butto più soldi su quelle radio, Beni. Se ne ha girampato abbastanza, boh, basta. Come vedi qua, un baracchino degli anni 70, sta uscendo benissimo e arrivi in capo al mondo da qua, quindi no, non ho bisogno di spendere altri soldi. Sto investendo, ho ordinato un'altra radio, vintage, bella, molto bella, però sto investendo su questi tipi di radio, su questi tipi di baracchini, non radio, sono questi baracchini vintage base. Che mi piace averli, ce li avevo, però erano disordinati. Adesso ho cambiato strategia di come fare lo shack, e quindi mi sta appassionando molto questa parte qua, capito? Però sono tutti belli, funzionanti, e ogni radio ha il microfono da tavolo. Ho 7 radio, 7 microfoni da tavolo. No, io ho comprato tutti MB+5 e MB+4, adesso c'ho il TAN+3 anche. Basta, Beni, già va bene, dai, ne ho tanti, ho l'Airbex, il DAC, che è quello grande che conosci tu, il Midland, tutti base a 220, il Midland del 574 base, l'Inuiti 294 base, l'Integ 3104 base, ho lo Standard 2002 base, il Pony, che è questo che sto modulando base, ho un Pace base, capito? Gli altri due sono dentro l'armadio anche, però sono veicolati. Adesso ne ho ordinato un altro, che spero mi arrivi la prossima settimana, dai, sicuramente, o a fine settimana, non lo so se ce la fa, ed è un per Simpson base, perché c'è anche il microfono di quella radio lì, quindi ho voluto prendere quella, però è 40 canali, dai, simile al Midland, a questa che c'ho io. Avanti Gianni. Aspetta, adesso scrivo un altro. Sì, ce l'ho anch'io quella foto già, se la volevi vedere te la mandavo io. KK, capito Beni? È così. È un investimento un po' costoso, Questa che ho preso è 130 euro, ma è nuova, bella, 40 canali. Ma sta mandando uno di Olbia. Potevo andare a prenderlo, ma con questo tempo brutto, ma non ci venire, guarda un casino, Olbia, allagato, tutto, vabbè, fai un pacco e spediscimela tutti i dì. Caricami la spedizione, quello che me la sta mandando. Mi ha detto se ce la faceva me la spediva in questi giorni, se no non lo so, comunque arriverà da. Ciao! Cazzo, ti sei preso questa radio che è bellissima, guarda. A me piace molto. Infatti doveva essere la mia a 130 euro, però la sta vendendo a 250 e quindi se la tiene. No, 250 è troppo. Però è molto bella, molto molto bella. Se non erro, però io c'ho più di 20. No, le manca la manopola, quella commutazione della banda, non le manca niente, ce l'ho la foto. Io avevo degli accordi, sono saltati, io a quella cifra non ne compro di vintage, no, me ne esco di casa per comprare i vintage, quindi se la tiene se la gode lui, non mi interessa a me. Ne ho ordinato già un'altra io, guarda, 130 euro, ho preso il Simba, comunque della casa dei Simba, il per Simpson base 40 canali, dovrebbe arrivare questa settimana a 130 euro, quindi non ne ho problemi di comprare io, però quelle cifre quando iniziano ad essere esagerate così a me non mi interessano più. Comunque 200 si poteva avere. Ma io non la compro quella radio a 200 euro. Per 200 euro te l'ho detto cosa prendo. Prendo il Simba io che mi piace di più. Oh, vabbè, comunque è bella, mi piace. È una delle radio base che mi piacciono. Perché non sono tutte che mi piacciono. Quella della categoria di Royce, Gianni. Quella, il Royce si chiama Royce e quella si chiama Jaguar e lo fa la pace. Capito? Ce l'ho la foto, non mi interessa. No, non mi riguarda Gianni, capito? Non mi riguarda proprio. Io quando uno dà una parola mantiene, non mi interessa più. Avanti, Benì. Lascia perdere il 4.40, Benì. Trovati un bel 4.30, io lo sai, sono più invudiano dal 1986. E 4.40, finalmente, nel 2020, sono riuscito a togliermi la metà delle balle. Perché ho speso tanti di quei soldi che mi uscivano a radio nuova. Ecco perché mi sono ripreso un 140 per la 27, ho anche il 430, anzi di 140 ne ho due, uno è al centro assistenza che me lo stanno tutto allineando, proprio facendo perfetto, perfetto, perché io non voglio rotture di balle, e quindi dovrebbero restituirmelo, non, forse non questa settimana, ma la prossima settimana dovrebbe essere qua. Capito? Però 4.40 non me ne va da più bene, perché ho speso una barca di soldi, una barca di soldi. Al solito problema del VCO, e quando ti si rompe quello lo devi mandare da Bianconi e ci vogliono 220 euro bene. Non ci sono proprio, ma alla lira, 220 euro, 180 per la riparazione, 20 andare di radio, 19 euro andare, 19 euro a tornare, non si può. Guarda, io ho 10 anni di 4.30, Benì, e Fabrizio Chirigato mi ha cambiato una volta il display perché si erano bruciati gli ultimi due decimali, e boh, capito? E basta. Dopodiché io non ho mai fatto una riparazione su quella radio. Il 440 è una radio bella, funzionante, ma ha mille problemi, soprattutto sulla parte del VCO, e non c'è niente da fare, ti dà sapere. Io l'avevo fatto revisionare due anni fa, e a metà del 2020 mi ha rifatto lo stesso difetto. Fortunatamente si erano abbassate le tensioni del VCO, sono state rifatte le tensioni del VCO e la radio ha ripreso a funzionare normalmente, ma come ho trovato l'occasione l'ho venduta subito e non ne compro più, non mi interessa. Non c'è niente da fare, nessuno a me mi può contraddire, perché io ho iniziato con queste, con quelle radio lì a modulare, capito? Ma poi io l'ho comprata nuova, il 440, il primo 440 io lo comprai nuovo da Mario Notari in Viale Mameli, e dopo due anni e mezzo, tre anni che l'avevamo preso assieme, io Marco 131 aveva preso il 430, io il 440, a lui mai un difetto, a me già dopo due anni e mezzo della radio era nuova, puntini, tutti, una mattina lo accendo, tutti puntini. Allora me l'aveva fatto Carlo di Chiaramonti e me l'aveva messo a posto. Da lì Carlo mi aveva detto: questa radio è difettosa da sa fabbrica, capito? Da lì ho capito che il problema del 440 era un problema nato proprio dalla nascita sulla parte del VCO, e se l'ha portato per sempre. L'unico problema, il difetto che ha quella radio è il VCO, basta, altri difetti non ne ha. Ma te lo sto dicendo, il 140 è un muletto, è ancora più muletto del 430. Io quando lavoravo a Cagliari avevo il 140 e lo spegnevo il praticamente la domenica sera, e lo riaccendevo il venerdì, il sabato mattina, quando della settimana dopo, quando rientravo a casa, e ha sempre funzionava sempre. Così ho fatto col 440 quando lavoravo lo stesso Furi. Quando tornavo, questo 440 aveva sempre problemi di accensione, sempre. Quindi alla fine ho detto: boh, basta, non voglio più intendere i 440 io. 140, 680 e 430. Queste sono le radio. Adesso sicuramente, siccome ho un 140, un altro che mi deve arrivare, appunto, che è al centro assistenza, appena arriva lo metto in vendita e con quei soldi mi compro il 680. Così ho 680, 140 e 430. No, non ne voglio più 440, Benì. Avanti, Gianni. Vedi, ma non c'è quello che ti ho avuto, Marco, come si chiama? La tappigliana, no? Non c'avevi quello, che era il mio prima. Così, no. Benito c'ha la T250, gli ho venduto io, e il 140 c'ha Benito, è quello che aveva Franco Delta 1. No, non l'ha venduto a lui, Marco. Io l'ho convinto di sì. E allora quello di Franco te l'hai venduto? Quello lì è andato a finire a Luca. Non ho capito, Giroletta. Io ero rimasto che tu avevi quello di Franco Delta. Quello di Franco Delta era il tuo già, prima di essere il tuo era il mio. Io l'ho dato a te, tu l'hai dato a Marco, e Marco l'ha venduto a Benito allora. No, quello lì è quello che io ho preso preso il Continente, non era il tuo. L'ho preso da Continente, quello lì, da Tecnocomunicazioni. Ah, è vero, è vero, è vero, tu ne hai avuto due, sì, sì, sì. Va bene, va bene. Ok, KK. No, no, bene, allora sono rimasto indietro, dai. Va bene, va bene. Aspetta un attimo, che mi ha mandato un messaggio quello di Orbia, può darsi pure che me lo mandi prima questa radio che ho comprato già. Il mio? No, il tuo no, non ho memorizzato, devo memorizzare, adesso guardo. KK, dai, ho rimesso tutto come era prima. E adesso va bene, io la regalo a casa. Questo è 7 giorni. Chiave. Allora, il quinto, anche io ce l'avevo tempo fa, abbinato con il Tanner MP2U e con un giambalista. Ehi, già, me la manda oggi, dai. Me la manda oggi, me la spedisce. Me l'ha spedita oggi praticamente quella radio, dai. Mi ha mandato un messaggio adesso. Ma vediamo com'è, dai, che cos'è? È un Simba? No, no, no, è della casa del Simba, è un Precipson base. Dove è praticamente uguale al microfono che ho io della Precipson, dai. È grande quanto il Simba, se non mi ricordo la sigla. Aspetta, se mi ha mandato la foto te la faccio vedere, ma non penso, perché avevamo il telefono. Vediamo se ce l'ho qua nella galleria. Questa è quella che c'ha Luca. No, no, non ce l'ho. Ma già lei che mandiamo una foto e te la, ma poi vabbè, quando arriva ti faccio la foto, te la faccio. Molto bella, è grande come il Simba, Solo che 40 canali, capito? 40 canali. 130 euro, 130 euro. No, 200, 130 euro. Cava, non ce l'ho, cava. Cos'è, Beni? Cassa, Sì, dalle 5 alle 7, dalle 10 a mezzogiorno deve rimanere a casa. Guarda, mi ha detto che può venire anche un minuto prima delle 7, occhio. Beni, esce alle 7.05, ma non alle 7-5. Ehi, altrove aperto, sono alle 7.30 aperto, Beni. Ma non uscire prima, esci dopo, come ti ha detto Gianni, perché è successo anche a me. Io stavo per uscire, mi stavo preparando, era suonato il campanello, era mezzogiorno meno 10. Passate, ha suonato il campanello e pensavo fosse il postino, e invece era il medico fiscale. Subito mi sono buttato in zavattoli, immediatamente, capito? Ed è venuto a quell'ora, e sono un bel bastardi. A me alle 7:05 è venuto, una volta. Però ero in casa, ero tranquillo, non stavo riuscendo mai niente. Alle 7:05 lui è venuto. E addirittura voleva aumentare i giorni, non ho voluto io, perché c'avevo la frattura del culo. E mi ha detto, era una donna, e mi ha detto, guardi, meglio di me non lo può capire nessuno, perché ho avuto la stessa frattura anch'io, si ripercuote la spina dorsale, vengono dolori, lo so tutto perché l'ho avuto anch'io. Quindi se vuole io gli do anche 15 giorni, no, ho detto lasci così, perché poi magari mi fanno stupido. Oh, un attimino che mi sposto di canali, che mi ha mandato un messaggio, per fare una prova. Arrivo subito. Certo, già, tutto fratturato, sì. Ehi, ma sai che cos'è che mi sembrava? L'ho vista da lontano, Luca, quella manopola, sembrava che mancasse, invece la manopola più piccola, non so adesso se sia originale o meno, dello off. Cos'è l'interruttore, on off? Poi a fianco c'è l'attacco delle cuffie, l'altro è l'attacco del microfono, ed è tutto originale, non ne manca neanche una, oh già, di manopola, capito? AM, LSB, USB. Bella, ma che cos'è, americano? Introvabile, se tu guardi la cerchi non la trovi, capito? Sicuramente ne hanno fatto poche e nulla, boh. E io ho visto l'unico video americano di questa radio qua. In Italia non ve ne manco una. Bella perché c'ha tre strumenti, mi piace, poi cromata, come ti piace a me? In alluminio, poi c'ha, vabbè, i tastini, perché c'ha l'orologio anche, dove ti segna il canale, premi un tasto e ti segna l'ora. Tra l'altro, quando ti segna l'ora, tu premi la portante, lui va in automatico e ti fa vedere che canale sei. E poi quando muori la portante ritorna sull'orologio. Forte. Peccato che non funzioni bene il suo microfono, ragazzi. Probabilmente basta adattargliene un altro, capito? O magari il microfono difettoso, non lo so, e invece so che il radio, ma magari la radio, Non lo so. No, non collego altri microfoni perché non mi interessa, ho detto, lo devo spedire, sto aspettando che mi paghino, capito? Così che. KK, avanti, medico. Medico, Pavivella! Sì, gli infermieri io sento, boh, non li ho presi perché sono qua. Si sentono gli infermieri, deve essere qualche ospedale, boh. Ehi, vai, vai. Arrivi forte qua, Prova di nuovo, vai, in diretta. Ciao, direttore, prova, Luca, mi senti? Sì. Devo controllare, ma dove? Là? RTMR. Cambi per Pavivella! Faccio la portata a becco, già stato già. E beh Luca, allora le prove le stavi facendo, non sono intervenuto perché ho visto che già stavi facendo le prove. Sì, hai già aspetto tutto, già messo tutto a posto. Stavo dicendo, c'è Benito, ho la portante aperta al telefono. Sì, già l'ho sentito. Già l'ho sentito, se Benito con il telefono con la portante aperta. E vabbè, già se ne renderà conto. Addirittura si sente quello che sta parlando al telefono. Probabilmente ha messo il vivo a voce. C'è Gianni e non so se si è sentato. No, solo che stavo facendo le prove PNR con Benito. E io sono qua. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Gianni. Molto amplificato, sì, già. Vabbè, comunque già va bene. Sì, Benito si ha lasciato la portante inserita al telefono, incredibile. Vabbè, può succedere, dai. Sì, vabbè. Sì, comunque confermo anch'io, o Luca, quel microfono non amplificava. Era buono come modulazione, però come microfono normale. Tu hai quel microfono con la rotellina sopra, e ho uno io anche così, mio Luca, della CTE. No, non con la rotellina sopra, con la rotellina al fianco, è una rotellina rossa, però il microfono all'interno non c'ha né circuito né batteria, capito? È un microfono credo di 40 anni fa, Anche il mio è così, però io mi ricordo che il mio c'era sopra la rotellina, adesso sono molto senza vederlo, bisogna che lo tolga fuori da qualche parte, però anche il mio è così, senza batteria, senza circuito, niente. No, magari c'è la resistenza, che ne so, sarà quello che si usa come volume, come aumento di volume, ma comunque già, però funzionava bene, è una CTE, il mio, quello che io è della CTE, mi ricordo quello. Ma questo c'è scritto Universe. Ma magari è uguale, dai, sarà uguale. Non so, se te lo vuoi provare io te lo cerco e te lo faccio avere e poi magari lo provi, non lo so. No, non c'è bisogno giù, non c'è bisogno. Tanto la devo spedire, capito? Vediamo un po'. Benito! Adesso già la sta a casa la portante. Vedi, la portante aperta ti ha lasciato quando stavi telefonando. Meno male non era con una donna al telefono. Se no toccava ascoltare tutto, Vedi, ti hai dimenticato la portante inserita mentre parlavi al telefono. Tu pensa che in parte poco a poco si sentiva anche quello che stava parlando con te, la persona che stava parlando con te. Oh, figurati Beni, che problema c'è? Che aspetta, ci mancherebbe. Ciao Beni, Giulio, da questa parte non so se mi hai riconosciuto. Ok, vabbè. Cosa che succede? Non ti preoccupare, che qualche tempo fa qualcuno si è anche addormentato con la portata inserita. Ma per parecchi minuti, forse qualche ora anche, perché per quanto mi ricordo io, si sentiva russando, mentre lui era addormentato, russava e si sentiva un concerto sinfonico nasale. E vabbè, cose che succedono. ai vivi, sempre ai vivi, bello Luca. E ai belli come me. Anche ai belli. Andiamo. Anche quello è vero, anche ai belli. Vabbè dai. Comunque. Perché ma la chiesa che deve spedire Luca? Te l'ho mandato, boh, non lo riceve. Aspetta, quel telefono. Boh, il telefono è giù messo. No, me l'ho lasciato giù probabilmente. Tu me l'ho lasciato, vai. Nella tavernetta me l'ho lasciato. Dopo lo prendo e guardo. Il Jaguar 8193 AM USB LSB. Non so se lo conosci, una radio credo americana. Veicolare? No, base. Ah, base. Non mi dammi il telefono, mi era qui il telefono. Adesso mi sono girato e l'ho visto. Adesso lo apro. Ah, adesso sono 706. Cosa? Ce l'avevo poco fa, peccato. Se mi hai dato anche i controlli. Che mascolo. E il magnum c'ho. C'è il magnum che è dentro l'armadio, conservato. E poi c'ho 706, basta. E quello c'era attaccato poco fa. Questo è bello però, mi Luca, l'ho visto, è bello. Eia, no, c'è bello e poi non è tanto messo male per l'età che ha. E quello lì c'era attaccato col... Non l'ho visto la foto, ti ho mandato la foto. Tassi rossi. Ma ti ho mandato una foto a te. È bello, il terzo switch cos'è? Cosa? Un nosmetro dovrebbe essere, Luca. Eia, modulometro, rosmetro e wattmetro. È bello, una bella gaiolina. Molto bella. Sì. Con tre strumenti. E poi cosa? Non è niente. Peccato che non ha le FM. Non so come mai, forse in quelle zone non lo usano l'FM. Non lo so. Una bella radio. Vabbè, io non è che gioco Nando Macbeth in radio. Però sì, i LED sono anche di lampadine originali. Quelle lì vorrebbero cambiate, vedi. Però cazzo rubiglia si giamba, perché sono gialle chi. Sì, infatti sono gialli. E vabbè, ma è già bellino, dai. Oh, per me sono via me le radio così da base non mi piacciono, a meno che non sia un DAC o un Saturneco, parlando della 27 chiaramente. Oh, è discreto, è bello, è come di figura, questo è bello. E cos'è 23 canali solamente questo? 40. Ho capito. Allora non è poi così tanto antico, diciamo, dai, visto considerato che ha 40 canali, anche se non ha l'FM, questa è roba americana sicuramente. Va bene, era già l'inizio del moderno. Sì, non è una cosa, attenzione, non è a valvole, capito? Però credo che sia degli anni 60 comunque, boh. Ok. Sì, no, ma già è bello, vabbè, non è a valvole, d'accordo. Sicuramente ci saranno i quattro, come erano prima, dai, le radio base di una certa epoca, intorno al 70, più o meno. Gianni, e beh, a chi cedo o no? È vero. Io ci dato giù, sto aspettando che vi rilanciate, state parlando. Che ho il dito veloce. No, ti diciamo Spiri Gonzales, non dito veloce. Ehi, vabbè dai, figurati già, ma insomma, tu devi entrare sempre dal portone, non dalla porticina, dal portone. Tanto te lo puoi anche permettere, perciò... Comunque è una bella radio anche quella che stai usando adesso, Gianni. È una bella radio, ti piace? Bellissima, a me mi piace molto quella radio lì. Ottima. A me no. Sì, anche se basta al contrario, Jack. Questo è Saturneco. Quello è sempre più bello, il migliore. Io l'ho sempre detto, per la 27 è imbattibile. Saturneco e DAC, tutti i lastri sono sempre secondari. Tutti i lastri sono noi, così è. Il più meglio si dice, il più meglio. Il più meglio, in italiano, sì. Poi non lo sappiamo, se si dice in arabo, ma comunque diciamolo in italiano, ma più meglio blu più no, forse è meglio di disagio. Perché Gianni è cuocuo male. Sì, Lucrezia Burro. Gianni Perisella. Luca Paladino. Oh, Benito, sento basso basso, vabbè, lui la parte di giù, questo qua non c'ha manco antenna. E niente, là, salutamolo già. C'è la Turbo 2001, tanti saluti da Luca Benito, c'è la Turbo 2001, ma a me mi diceva Santiago 8, lì di solito arrivano 9:20 in quella zona. Deve essere che l'ha messa in un punto dove non mi diceva bene. C'è la cosa, l'antenna del Turbo 2001, non può avere la ricezione dell'antenna di stazione fissa, no? Anche se è un'ultima antenna, ma sempre per stazione mobile. Dalla macchina io, che stiamo tutto ora sentendo tutti i cazzi in voce. E dipende anche dove è messa, il piano di radianti di cosa, non riflettete che c'ha. Dipende, magari l'ha messa sulla stampa, non è che abbia un piano riflettete di stampa. Infatti è quello, il discorso è sempre quello. Quell'antenna lì è fatta per avere un piano riflettente tipo macchina. Più grande è la macchina e tanto meglio dovrebbe risuonare l'antenna. Va bene, dai. Invece noi siamo piccolini, con la canna alla becca. Andiamo a pescare intanto anche al mercato. Vero Luca? La canna da pesca va bene giù. Ma tu non c'hai la canna da pesca, quella non è una canna da pesca quella, dai, la canna da pesca è questa che c'ho io. Io stavo guardando qua, ho messo Roma Radio, che è WTK80, HF Marino, è radio amatoriale. Cos'è radio amatoriale? È un HF Marino anche, tutte in un'unica radio. Ma secondo me si è sbagliato, ha scritto HF Marino e radio amatoriale. Però c'è la frequenza dei 40 metri nella foto, TK80, mai visto, sinceramente. Nemmeno a me mi risulta una radio così. Vabbè, dai. Sì, e infatti un giorno, adesso ho sempre piovendo, porca miseria, la prima giorno che fa di bella giornata, che posso uscire a mettere l'antenna, a volare tranquillo, senza che piova, provo quell'antenna che avevo fatto io, o Luca, perché l'avevo sì, provata così, ma alla buona, e sembrava che andasse bene, ma poi non l'ho mai potuto montare, perché per mettere quella ne devo buttare giù la Game Master, ma già mi viene bene perché io nel terrazzo abbasso il palo, quei 2,5 metri dove sarà più o meno il palo, e poi arrivo a toccare l'antenna da terra, diciamo, dai. Per cui già mi va bene, è una cosa, un lavoro semplice. Solo per quello che ha l'antenna così leggera, senza radiali, ti permette di fare questi lavori così, senza nessuna fatica e in maniera molto ma molto veloce. A proposito Gianni, ma la tua si era rotta, cos'è che ti era successo? Non l'avevo capito bene io. Si è filata la seconda elemento, si è filata, ma l'ho rientrata più dentro e praticamente forse era stata montata male, non è stato messo bene dentro il petto. Vabbè, adesso l'ho aggiustata, tutti questi venti da resistere tranquillamente, ho messo tre fascette in acciaio per stringere le spaccature e basta. Le spaccature risultano all'interno, adesso non risultano più all'esterno. Ho capito, sì. Certo, in effetti. L'unico debole di questa antenna è questo particolare qua, che magari un vento molto forte la può anche rompere. E sai cosa stavo pensando io? Magari forse Luca me lo potrà dire meglio. Oh Luca, se prendo io un cordone di cotone, sai, quel filo che serve, sottile, e l'attacco lungo tutta l'antenna, ogni 20 cm ci faccio una passata di nastro isolante, in modo se si dovesse rompere, troncare in poche parole, e la stazione non cade per strada, rimane appeso sempre. Cosa ne dici tu? Eh beh, la stazione, intanto lo rimane attaccato perché c'è l'antenna dentro o giù, capito? Il capo rimane appeso l'uno in pezzo. Sì, ma l'antenna, la parte finale del cavo è fissata da un morsettino a brugola, perlomeno questa che ho io così.